Magnifico Teatrino Errante e Arte Lego sono le due associazioni di promozione sociale che organizzano questa rassegna, che è all'interno del cartellone Bologna Estate. Questa rassegna è una rassegna di teatro, circo, incontri, musica, rivolta chiaramente ai giovani, bambini, famiglie, a persone diversamente abili, anche perché la compagnia Magnifico Teatrino è una compagnia di teatro integrato ed è stata pensata appunto sul tema della disobbedienza, per parlare di disobbedienza come un atteggiamento positivo, cioè di vederla come una potenzialità che ognuno di noi ha nel vedere le cose e nel cambiare le traiettorie del solito pensare. E chiaramente viene fatta attraverso spettacoli, incontri, laboratori. Spettacoli come quello del Magnifico Teatrino, che si chiama Dance on the Tree, e parla di questa ragazza, Julia Butterfly Hill, che ha vissuto 2 anni su un albero appunto per dimostrare il suo ideale, che era quello di non far cadere, di non far tagliare questa sequoia che appunto lei aveva chiamato Luna in California. Poi ci sarà uno spettacolo di circo e teatro per bambini di Circo Sottosopra, che parlerà di questa storia degli asini che volano, di questo posto un sacco strano dove appunto i parametri sono capovolti e il nome del paese è Mondo Capovolto. Poi ci saranno incontri con la BA, i ragazzi della BA, per parlare della loro esperienza. Ci sarà un laboratorio condotto da MUVET, l'associazione MUVET, nella persona fisica di Giuseppe Comuniello, che è un danzatore non vedente, che appunto sperimenterà questo workshop attraverso la sua personale metodologia da non vedente, che racconta un po' anche come si può disubbidire ai principi della danza come disciplina e arte. Ci sarà poesia, ci saranno concerti, soprattutto un incontro musicale che parlerà di Fela Kuti e della sua appunto poetica, della sua storia, e tanto altro che poi potete scoprire sulla pagina Facebook che si chiama Disobbedienze Bologna Estate. Diverse disobbedienze civili che sembrano dire che in certe situazioni ribellarsi è giusto. Sì, che diciamo che appunto può essere letto come un atteggiamento negativo, ma soprattutto nel caso nostro non è quella la direzione, ma di un atteggiamento positivo, perché disubbidire a volte vuol dire cambiare, avere la forza, il coraggio di tracciare nuove linee di azione, e quindi è un atteggiamento costruttivo e non distruttivo. E allora, insomma, già un po' di infarinatura su quello che accade lo abbiamo dato. Ricordiamo l'appuntamento e come fare a sapere tutto il programma. Allora, per leggere il programma c'è la pagina, ripeto, Disobbedienze, dove trovate scritto il programma dettagliato del 15 e 16 settembre, e il luogo sarà Mercato Sonato, Piazza Spadolini. Tutto il festival ha comunque l'obiettivo di portare il teatro, il circo, la musica, eccetera eccetera, ma non solo di coinvolgere le persone come spettatori, ma anche attivamente attraverso dei laboratori, sia per adulti, quindi di danza, di teatro integrato, ma anche per bambini attraverso il laboratorio Circolè. E per il resto c'è il sito anche di Bologna Estate, dove siamo sempre con Disobbedienze, e questo.